Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Io non bevo vino, né tantomeno superalcolici. In casa mia c'è solo una bottiglia di Marsala, che uso per cucinare alcune ricette. Ma ho una passione: i cioccolatini. Quelli famosi con la carta rosa e la ciliegina dentro. Può capitare che guidando, a volte ne gusti uno. Mi dovrò sentire un'alcolizzata e un pericolo per la società? Spero di no, e che questi piccoli piaceri non vengano colpevolizzati da regole eccessive e punitive nei confronti anche di chi, responsabilmente, si mette alla guida dell'auto. Giulia. Io penso che il problema degli incidenti dovuti all'alcolismo forse non sia risolvibile del tutto. Si potrebbe tuttavia trovare una soluzione temporanea, una specie di work in progress. Siccome i controlli purtroppo non bastano, anche perché forse non ci sono i soldi per incentivarli, allora si potrebbero trovare i soldi in questo modo: togliere le limitazioni riguardo il quantitativo di alcol da poter assumere, ovvero si può bere a qualsiasi orario e anche senza limiti di quantità, però devono essere inasprite a livello di tolleranza zero le multe e le pene da dare a coloro che vengono trovati in stato di ebbrezza anche minima alla guida. E soprattutto, queste regole bisogna cercare di farle osservare. E poi bisogna trovare i soldi per aumentare i controlli, facendo pagare ai gestori dei locali, soprattutto di quelli notturni, una tassa maggiore da pagare sulla vendita di alcolici. In modo da poter pagare con questa tassa il maggior numero di controlli che si renderebbero necessari. Sono sicuro che i gestori potrebbero storcere un po' il naso, ma avrebbero più piacere a pagare una tassa che però permetterebbe loro di vendere più alcolici. Probabilmente cercherebbero di ritoccare un pochino i prezzi degli alcolici. Tanto un giovane che paga 10 euro per entrare in discoteca, per un cocktail può pagare benissimo anche 10,50 euro. Infine, l'alcol non è l'unica causa degli incidenti stradali. C'è anche il sonno, che può arrivare anche senza alcol. I giovani possono bere, i gestori possono vendere. Gli unici a perderci sono i guidatori, che per quella sera non devono bere, tanto ne acquisteranno in salute, la loro salute e quella degli amici che sono in auto assieme a loro. E comunque, in ogni modo, se non si prova a trovare una soluzione, non ci si arriverà mai. Non basta parlarne, bisogna agire e anche essere disposti a provare ed eventualmente a modificare in corso d'opera le eventuali leggi, in tempi più brevi di quelli che ci vogliono adesso. Se si pensa solo a stabilire chi abbia ragione e chi no, non si risolve nulla. Lettera firmata. Ho smesso di frequentare tutti i locali che si trovano fuori da un raggio raggiungibile a piedi, perché anche senza bere è impensabile che i riflessi di un conducente non siano allentati dalla stanchezza e dalle ore di musica. Ne ho la certezza dopo essere stata coinvolta in un incidente causato proprio dal conducente designato alla guida, ovvero quello senza alcol né sangue, ma stanco e frastornato. Credo sia sbagliato pensare di risolvere il problema ponendo unicamente divieti e controlli. Il problema centrale non è l'alcol, ma il fatto che i locali siano collocati fuori dai centri abitati. Il problema sono i loro orari di apertura e la musica assordante. La tolleranza zero dovrebbe essere uno strumento per incentivare, anche economicamente, soluzioni che prevedano una disponibilità di mezzi pubblici e di navette notturne. Credo che questa sia l'unica proposta sensata. Laura. Egregio direttore, le scrivo per condividere un dubbio. Sabato sera, io, mio marito e nostro figlio siamo stati invitati a casa di amici. Abbiamo passato la giornata fuori città e al ritorno, mentre eravamo già in autostrada, ci è venuto in mente che non avevamo niente da portare a casa di questi amici. Volendo evitare di fare i cafoni, abbiamo pensato di comprare almeno un paio di bottiglioni di bibite analcoliche, ci sarebbero stati diversi bambini, in un autogrill. Ci fermiamo. Entro, mi giro a destra e a sinistra, cerco qua e là sugli scaffali, ma niente da fare, solo bottigliette da un sorso. In compenso, bottiglie di superalcolici, vino, eccetera. Possibile? Capisco che l'autogrill in questione è piccolo, ma magnum di champagne sì e una Fanta da 2 litri no? Ma se uno è stanco e assonnato e chiede un caffè, glielo danno corretto al whisky? Ovvio che no. Ma che fine hanno fatto le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti autostradali? Ma. Sara, Trieste.

Qualche giorno fa, il 12 dicembre, nella famigerata Piazza Verdi di Bologna, un gruppo poco folto ma molto vociante ha organizzato un corteo di protesta. Quando il corteo si è mosso proprio all'altezza del rettorato dell'Ateneo più antico del mondo, mi sono accorta che alla testa del corteo c'era un gruppo di bambini di età non superiore ai 7-8 anni, imbacuccati e intirizziti che reggevano uno striscione. Era un gran freddo e piovigginava con raffiche di vento. Il tutto davanti a uno spiegamento francamente esagerato di vigili urbani e polizia che guardavano con distacco. E mi sono chiesta, è questo il livello di civiltà che abbiamo raggiunto? Tenere dei bambini al freddo e sotto la pioggia? Ma dove sono nati e cresciuti i loro genitori? Che tipo di rispetto hanno per i loro bimbi? Ho cercato delle giustificazioni, ma non sono riuscita a trovarne. Anche in tempi di crisi non ci sono scuse per un comportamento così barbaro e sciocco. Si parla di togliere la patria potestà agli zingari che mandano i loro bambini a mendicare. Almeno loro lo fanno per bisogno. Ma che guadagno c'è ad esibire degli innocenti per delle proteste politiche? Sono dei gran brutti segnali questi. Stazione del treno. Alba sotto la pioggia, anzi è ancora notte. Una voce all'altoparlante annuncia che il treno è soppresso. Il primo treno utile è uno di quelli piccoli. Naturalmente parte con un po' di ritardo e dato che oltre ai passeggeri abituali deve caricare anche noi, si scatena l'inferno. Nella carrozza che nessuno aveva pulito c'è una vecchia copia di uno dei quotidiani gratuiti con in prima pagina un'intervista all'amministratore delegato di Trenitalia, Mauro Moretti. Il titolo proclama «Con l'alta velocità» toglieremo il 60% dei passeggeri a CAI. Momento di perplessità. Sto per chiedermi, ma perché io, con le mie tasse, devo pagare miliardi per salvare l'Alitalia e contemporaneamente pagare fantastilioni per fare l'alta velocità che all'Alitalia toglierà i clienti? Ma perché qualche migliaio di utenti della Roma-Milano vale tanto di più dei milioni di pendolari? Ma crollo nel dormiveglia, che viene a chi è stanco di porsi domande senza risposta. Nel vagone è impossibile muoversi. Arrivano lontani lamenti, attutiti dai corpi e dai cappotti. Chi chiede un centimetro di spazio per salire, chi si lamenta, chi borbotta. Sento una donna dire «Mamma mia, che macello! Ma questi sono i sacrifici che la Madonnina ci chiede!» Chissà, penso io. Chissà se sono proprio i sacrifici che ci chiede la Madonnina per guadagnarci il paradiso, oppure sono i sacrifici che altri ci impongono per il proprio guadagno. Chissà se su questi binari stiamo percorrendo le imperscrutabili vie del Signore o le imperscrutabili vie di una politica dei servizi pubblici, che sarebbe bello fosse difficile da comprendere, ma che invece pare orientata a favorire con i nostri soldi gli interessi di pochi, anziché usarli per l'interesse di molti. Chissà, mi dico, chissà. Madonnina, pensaci tu. Maurizio. Sulle facciate di ogni casa d'epoca, nuova o appena ridipinta. Sui muri di ogni sottopassaggio, sulle banchine e sulle carrozze del metrò. Sui vetri, sulle saracinesche dei negozi, sui cancelli e sui pali della luce. Sui semafori, sulle targhe delle vie e sui cartelli stradali, sui cestini dei rifiuti, sulle pensiline delle fermate dei mezzi pubblici, sulle siepi. Ogni giorno, migliaia di sgorbi. E nel cuore, ogni giorno, un solo desiderio. Vedere la mia città pulita. Lettera firmata. Gentile direttore, il Natale è alle porte e mi piacerebbe invitare tutti a cogliere l'occasione delle feste in arrivo per una pausa di riflessione. Il tema è la tolleranza e la libertà, principi che siamo sempre pronti a rivendicare per noi e raramente a concedere ad altri. Non voglio farne un discorso giuridico o storico-politico, ma essenzialmente umano. Vorrei parlare quindi a chiunque senta di avere qualche diritto a difendere la terra dallo straniero e dir loro questo, che il fatto di essere nati qui piuttosto che altrove non è un merito, è una fortuna, che il fatto di essere cresciuti lontano dalla disperazione, dalla guerra, dalla fame, dall'ignoranza, dalla violenza più cieca è un enorme regalo, un dono, che il fatto di avere una famiglia, una casa, un lavoro, è un'eccezione laddove ad averli è appena una piccolissima parte della popolazione mondiale. Che il fatto di poter esprimere liberamente le proprie idee è una conquista, sì, ma di qualcun altro, non di questa generazione che più di una volta ha mostrato di voler mettere a tacere le opinioni fuori dal coro dei pensatori indipendenti. Che di questo enorme tesoro che ci è capitato in dono dovremmo essere imbarazzati, perché non ci è affatto dovuto. Dovremmo vergognarci di fronte a chi non ha avuto la stessa fortuna. Dovremmo ringraziare tutti i giorni. Dovremmo rendere indietro qualcosa a ciascuno, a tutti quelli che forse l'avrebbero meritato più di noi. Morgana. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.